Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Giglio Group, un network televisivo che parla 6 lingue. Di Andrea Ferro. Questa è la storia di un'idea e di un imprenditore capace di svilupparla declinando la sua intuizione verso nuovi mondi. A scrivere e a raccontare questa storia è un genovese di 51 anni che, come i suoi antichi conterranei, è andato alla scoperta di terre lontane sull'onda di un nuovo modo di fare comunicazione. In fondo questa è sempre stata la vocazione di Alessandro Giglio, uomo di televisione e di ampie vedute. In poco più di 10 anni, la Giglio Group è diventata una specie di mondovisione sempre accesa, a valicare ogni fuso orario. Un gruppo multimediale che si rivolge a 5 continenti e 43 paesi e che ogni giorno parla a 150 milioni di persone. In Italia, Giglio Group vuol dire marchi come Music Box, Yacht & Sail, Play Me e Acqua, e possiede 2 canali sul digitale terrestre. Inoltre offre servizi di trasmissione ai principali network radiotelevisivi, nazionali e internazionali. Nasce circa 12 anni fa. L'occasione era un cambio mio professionale. Vengo dalla produzione televisiva per grandi reti generaliste. Credo di aver prodotto nella mia vita circa 200 ore di prime time, in particolar modo per Rai, Mediaset e in generale anche per grandi network stranieri. E circa 12-13 anni fa il digitale stava entrando nel mondo della televisione, c'era un'opportunità da cogliere, l'arrivo delle piattaforme a pagamento, eccetera, e quindi la trasformazione di professione da produttore di contenuti a editore della sfera digitale ha creato i presupposti per creare l'azienda, la Giglio Group, che poi nel corso degli anni ha cambiato pelle, è cresciuta e si è sempre più sintonizzata con quello che era il consumo digitale che stava diventando abitudine nelle nostre vite quotidiane. Spesso all'origine di un'impresa c'è un'idea semplice che germoglia nella varietà dei campi. Tutto sta a coglierla e a svilupparla, sapendola poi declinare nel modo giusto e al tempo giusto. Tanto più se in ballo c'è la comunicazione e quindi l'obiettivo è rivolgersi direttamente a platee sempre più ampie e diverse. La TV si è trasformata da analogico in digitale, l'ha fatto prevalentemente solo come mezzo tecnologico, cioè non trasmette più in analogico, trasmette in digitale. Quello che invece noi cerchiamo di fare è che questa trasformazione in digitale sia completa, sia nel modo di pensare alla televisione e soprattutto per i telespettatori nel modo di fruirne, cioè riuscire a portare tutte le capacità, le opportunità del digitale all'interno del mondo televisivo e viceversa. Quello che noi cerchiamo di fare, che abbiamo già realizzato soprattutto per il mercato asiatico, in particolare Cina, Vietnam, presto Malesia e per gli Stati Uniti, è una nuova esperienza per il telespettatore. L'idea di Alessandro Giglio è stata abbinare le opportunità, attorcigliare 2 matasse apparentemente sfilacciate e quindi proporre, offrire, veicolare messaggi e proposte attraverso un'unica piattaforma. Io uso un paragone che rende più comprensibile. Immaginate di vedere un documentario su Genova e sul suo salone nautico. Ecco, nel nostro caso vediamo, attraverso i nostri canali vediamo il documentario, ma contestualmente possiamo verificare il tempo, le previsioni meteo di Genova per il weekend. E se decidiamo quindi di intraprendere un viaggio per venire a visitare il salone, contestualmente compriamo il biglietto aereo, ma anche prenotiamo l'albergo, i ristoranti e anche le visite agli stand del salone per visitare le barche che più ci interessano. Questo è un esempio, noi lo facciamo quotidianamente in Cina, per esempio nel settore della moda, del fashion, di cui noi siamo non solo gli unici portavoce del Made in Italy in alcuni paesi, tra cui Cina e Vietnam in particolar modo, ma lo facciamo raccontando il Made in Italy, ma dando anche l'opportunità di acquistarlo contestualmente, perché attraverso la nostra tecnologia, second screen, quindi la possibilità, guardando il contenuto televisivo da un device digitale come può essere il mobile, il tablet, il PC o le smart TV, basta cliccare sull'immagine, per esempio, per processarne l'acquisto, per acquistare quello che in quel momento sto vedendo. Una sfilata di moda, acquisto il vestito che sta sfilando. Attraverso TV tradizionale, utilizzando sempre uno strumento come può essere il telefonino ed inquadrando le immagini, anche nello stesso modo mi appare la schermata del prodotto che in quel momento sto guardando in televisione e la possibilità di acquistarlo contemporaneamente. Dall'agosto 2015 Giglio Group è quotato in borsa. Ha chiuso il primo semestre 2016 con un fatturato di 14 milioni e 600 mila euro, in crescita del 122% rispetto al 2015, grazie ad acquisizioni e intese che via via hanno allargato gli orizzonti. In virtù di un accordo con il Partito dei Giovani Comunisti, Giglio Group è l'unico operatore straniero visibile su tutti gli smartphone gestiti dalle compagnie cinesi. Risultati brillanti e prospettive ambiziose. Alla base c'è la consapevolezza che lo sviluppo tecnologico disarticola anche le abitudini più radicate, cambia gli atteggiamenti apparentemente consolidati, offre sempre nuove chance da interpretare e valorizzare. Questo tipo di approccio, che non è in assoluto un'innovazione tecnologica sconvolgente, perché in realtà utilizziamo tecnologie esistenti, dalla realtà virtuale alla realtà aumentata. Il tema è il concepire il contenuto che deve essere pensato per questo nuovo modo di fruire. E il nostro salto non è un salto tecnologico, è un salto mentale, diciamo così, di approccio quindi nei confronti del telespettatore e quindi di relazione nella costruzione della catena che porta a quel tipo di offerta. Seguendo l'intuito del genovese che va alla scoperta di un nuovo mondo, Alessandro Giglio è diventato l'ambasciatore mediatico del Made in Italy, una specie di megafono puntato in terre lontane a presentare un marchio più forte di qualsiasi tempesta. Un brand che all'estero non conosce crisi di identità, ma che, come spiega, offre ancora ampi margini di sviluppo. Diciamo che essere italiani dà un vantaggio competitivo in generale. E nei paesi asiatici, per esempio, l'italianità viene vista come un buon lifestyle, quindi ci viene invidiato il nostro stile di vita, il nostro modo di prendere la vita, di viverla, eccetera. Forse immagino un'Italia in cui tutti girano in Ferrari, Lamborghini, vestiti Armani, bevendo grandi vini pregiati su una terrazza sul mare. Noi per esempio la cavalchiamo questa immagine, perché evidentemente è un'immagine comunque positiva che promuove sia il territorio che i prodotti del territorio. Comunque l'Italia viene visto come un paese d'eccellenza, con dei distinguo. Per esempio, parliamo di alcuni, mentre sulla moda, per esempio, mondo asiatico, non c'è dubbio che individua che l'Italia come grande produttore di lusso, nel fashion, gli riconosce un primato, meno, per esempio, nei vini. Mediamente, se si chiede a un cinese non particolarmente esperto, diciamo così, a un utente medio, sa che i francesi sono grandi produttori di vini, altri paesi, l'Italia, la domanda dicono: ma perché l'Italia produce anche vino? Quindi sì, l'Italia è un fattore critico di successo, dire che è un prodotto italiano, non in tutti i settori, perché in alcuni settori non siamo stati in grado di comunicarlo probabilmente con grande efficacia, quindi su quello bisogna lavorare di più. La comunicazione del Made in Italy non poteva non incrociarsi con una delle massime espressioni della nostra eccellenza, la nautica. Trascinato da quest'onda lunga di passione e vocazione, ha preso il largo Nautical Channel, fiore all'occhiello di Giglio Group. È distribuito su un centinaio di piattaforme in tutto il mondo, tra queste un'ottantina di pay TV per un totale di oltre 22 milioni di abbonati. Nautical Channel trasmette in HD in tutta Europa e in Russia, e ogni anno produce oltre 300 ore di nuovi contenuti. Noi abbiamo la fortuna di essere l'unico canale al mondo, Nautica Channel, l'unico canale al mondo che parla di nautica. Siamo presenti in 45 paesi, 5 continenti e trasmettiamo in 6 lingue diverse. Raccontiamo la nautica e questo devo dire che ci viene riconosciuto nel mondo un vantaggio nell'essere italiani. Il 60%, il 65% della nautica è italiana nel mondo. E se parliamo poi di nautica di lusso, le percentuali aumentano, quindi ci viene riconosciuta da italiano una leadership nel settore nautico. Raccontando in televisione la nautica, questa leadership ci viene riconosciuta da italiani. Probabilmente se raccontassimo, volessimo fare un canale di fiction nel mondo, di fiction italiana nel mondo, ecco, probabilmente non ci sarebbe lo stesso riconoscimento, la stessa credibilità che invece abbiamo nel raccontare la nautica, che viene vissuta nel mondo, la nautica italiana, come una nautica di grande qualità, e di riflesso quindi ci dà autorevolezza a noi nel raccontarla nei 5 continenti. All'interno di un sistema sempre più globale, la comunicazione e i media cambiano format e canoni espressivi, adattandoli alle modalità di fruizione. E allora, con Alessandro Giglio, proviamo a tracciare le linee lungo le quali la televisione svilupperà il suo futuro prossimo. Diciamo che nei prossimi 10 anni, secondo me, tenderà a scomparire la televisione, intendo dire come mezzo fisico, come oggetto nel nostro salotto, come mezzo privilegiato per la fruizione di contenuti televisivi. Noi abbiamo il modello cinese che ci dice che circa il 70% della visione dei contenuti televisivi non avviene attraverso la televisione. Quindi diciamo che questa è una tendenza, secondo me, scontata. Vediamo, noi negli Stati Uniti abbiamo appena firmato degli accordi per cui i nostri canali sono distribuiti su Google Play, su Apple TV, su Amazon, che trasmette anche canali televisivi e via dicendo. La tendenza sarà sempre quella che i contenuti, qualunque essi siano, radiofonici, televisivi, saranno declinati su tutte le piattaforme digitali e saranno fruibili dal pubblico in tutte le maniere, in mobilità soprattutto, perché la gente ha sempre meno tempo di stare a casa e quindi tende a riempire i tempi morti, che sono la metropolitana, il treno, gli spostamenti, eccetera, e che quindi sono i momenti in cui uno può dedicare alla fruizione di contenuti. Lo spa, il salotto, l'appuntamento alle 21 col telecomando in mano, lo vedo sinceramente un modello destinato a, non dico morire, ma a ridimensionarsi in maniera significativa. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.